C'è il caso, c'è la fortuna che fa sì che possiamo prendere un concetto piuttosto che un altro. Ma secondo lei le era rimasto questa cosa di Adriano? Ma tutto rimane dentro di noi. È stato un caso il fatto di recuperare questa cosa? Sì. È lo stesso di altri... Sì, è successo come per i soggetti di tutti gli altri romanzi. Non è stato diverso rispetto alle altre volte. Senta, ma quanto tempo è servito comunque... Da quando ha trovato e ripreso in mano il progetto per portarlo a compimento? Quanto tempo? Due anni. Due anni di scrittura? Sì. Ecco, Memorie di Adriano è un libro che è scritto come se lei fosse l'imperatore Adriano, un uomo, un romano, un potente. In prima persona. Naturalmente. Un romano, un potente, uno che aveva sognato dei sogni impossibili. Ecco, perché la storia di un uomo? Se era una cosa... Perché un uomo, un imperatore? Perché un uomo. Sì. Perché un uomo. Perché non c'è mai stata un'imperatrice con un progetto del mondo come lo aveva Adriano. Madame Yourcenar, se lei avesse scritto la storia, faccio un esempio, di Plotina, che era la moglie di Traiano e che aiutava Adriano, ecco, non avrebbe potuto scrivere in fondo la stessa storia? Si sa molto poco di Plotina e non si sa se ha avuto una vita interessante o no. Non si sa niente. Ma quindi solo per questo? Poteva essere però anche attraverso Plotina che si leggeva quel mondo? No. Non era generale, non ha fatto la guerra, non ha scritto una Costituzione, non ha viaggiato quanto Adriano. Ecco, quindi non è perché, come dice lei, la vita delle donne è più misteriosa e segreta? Perché si sa molto poco della vita quotidiana, interiore e spirituale di una persona. Ma le azioni sono visibili. Ecco, ma perché lei dice che la vita di una donna è più misteriosa e più segreta in generale? Perché se parliamo di Mitterrand, abbiamo molte cose da dire, a favore come a sfavore. Perché conosciamo tutto di lui. Ma se io parlo anche solo della moglie di Mitterrand, qualche persona sa che si occupava di opere sociali. Ma di quali opere e di come se ne occupava, forse lo sapeva solo qualcuno attorno a lei. Quindi in realtà noi non sappiamo nulla di lei. Madame Yourcenar, anche la sua però di vita in qualche modo è un po' misteriosa e segreta. Tant'è vero che nei suoi libri, quelli ritenuti autobiografici, lei si ferma all'età di 6 anni nel ricordo, per esempio Archivi del Nord o Care Memorie. Perché si ferma così presto? Entrambi questi due libri parlano della mia famiglia, non parlano di me. Ma lei sente che la sua vita è un po' segreta e misteriosa, la trattiene per sé o parla volentieri di sé? Né più né meno di tutte le altre vite. Senta, parlando di sua madre, questo mistero però... Sì. Resta, tanto che lei ha detto: io l'ho amata mia madre, ma non sono riuscito a conoscerla. Non ho detto di aver amato mia madre. Non ho mai detto questo, mai. Perché non posso dire di aver amato una persona che non ho conosciuto. Forse l'avrei amata, o forse non l'avrei amata. Ci sono tante persone che non amano la madre. Non so. Siccome è morta quando avevo 7 giorni, sembra prepotente pretendere di dire se io l'abbia amata o meno. Senta, ma per scrivere dei romanzi storici, come fa lei? Viene prima l'amore per un'epoca o per un personaggio oppure la conoscenza? Voglio dire, la domanda è questa. È lei che sceglie i periodi storici o in qualche modo sono i periodi storici che scelgono lei? Niente. Nessuna delle due. E anche qui non è questione di amore. Io non amo il secolo di Adriano, non amo il Rinascimento. Tutti i periodi storici sono terribili. Però nel Rinascimento c'erano vari aspetti intellettuali che volevo studiare. Quindi sono in qualche modo le epoche che scelgono lei, l'interesse per le epoche? No. Solo queste epoche mi permettevano di raccontare di un personaggio che ho vissuto o avrebbe potuto vivere proprio in quel tempo. Madame Yourcenar, per identificarsi con un personaggio in un certo momento storico, lei come fa? Soltanto leggendo libri? Io non mi identifico. No, ma per poter scrivere, insomma, per poter capire. Ecco, lei legge solo dei libri? Si fa un grande sforzo per capire. Ma attraverso cosa? Attraverso una ricerca? Attraverso l'intelligenza e la sensibilità. E bisogna leggere molto anche? I libri per approfondire servono moltissimo oppure va a intuizione? Qualche volta ho bisogno di studiare, molte volte uso l'intuito. Ecco, ma quando è che si sente sicura di poter padroneggiare un mondo che non ha mai visto? C'è una spia, una sensazione che le fa capire che lei è arrivata al cuore del problema?